pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi è stato raccomandato di non generare allarmismo nel chi mi ascolta e cercherò di farlo per quanto possibile, anche se l'inquietudine attorno a me si taglia con il coltello. Beh, riprendiamo Melog questa mattina dopo una lunga pausa, lo riprendiamo con Paolo Corleone e Fabrizio Intonti. La squadra perlomeno è sempre la stessa, ma chissà per quanto tempo. Leggendo i giornali, ascoltando le trasmissioni radiofoniche, guardando la televisione, non posso fare a meno di tradire con la mia voce quella che è l'inquietudine che sento attorno a me. Ma la cosa è generata. È generata probabilmente da un senso ineluttabile di metamorfosi, di cambiamento. Ciò che cambia attorno a noi ci dà sempre un senso di totale irrequietezza. Il nostro ritmo biologico è sottoposto a dei cambiamenti sociali, stagionali, che non sono determinati dal nostro metabolismo, dal nostro piacere, dalla nostra gioia, dall'architettura familiare che ci siamo costruito, che ci siamo imposti, ma delle consuetudini pubbliche generali. Noi dobbiamo 2 mesi all'anno, o 1 mese all'anno, 15 giorni all'anno, soprattutto agosto, considerare che il mondo si ferma, che si staccano tutti i problemi, i negozi si chiudono e improvvisamente noi dobbiamo, come fosse un comando automatico, divertirci, star bene, andare in vacanza, essere spensierati. Improvvisamente si abbassa tutta l'attenzione sui drammi che ci circondano. L'inquietudine che attanaglia la nostra anima deve essere assolutamente, improvvisamente sopita. Perché? Perché inizia per diktat pubblico il periodo delle vacanze. La mia estate è stata difficilissima, sono partita a luglio per portare i bambini al mare e la cosa tremenda del fatto di portare i bambini al mare a luglio è che tutte le altre mamme portano i bambini al mare a luglio, quindi cosa succede? Che si affittano case in linea di massima scomode, molto calde, quella sarebbe la cosa meno grave se non ci fosse poi il fatto di portare i bambini in spiaggia ed essere praticamente contorniati da bambini che urlano, madri isteriche che urlano dietro ai bambini, tate nevrotiche, nonne grasse che strillano e rincorrono i bambini con pezzi di pizza dicendo mangia, mangia, mangia, un'acqua sporchissima, bagnini fastidiosi che tentano di rimorchiare queste povere donne sole, non sapendo che non hanno nessuna intenzione di avere avventure estive perché sono annichilite dai figli. Ecco, ho voluto dare gloria alla confessione di una delle nostre ascoltatrici, coloro che io seguo, coloro che mi seguono, coloro che vedo già palpitanti nella pagina Facebook che rappresenta il punto di contatto più indissolubile tra me e il mio pubblico, che ho tenuto ben vivo e vivace per tutta l'estate insieme ad altri espedienti di cui vi parlerò. Al numero verde 800 24 00 24, che è il numero che potrete cominciare a fare sin d'ora per parlare quanto a voi inquietano e quanto vi infastidiscono questi cambiamenti non programmati, questa necessità di azzerare, di ricominciare, soprattutto guardandovi intorno, quanto anche voi vedete nei volti le persone vi stanno accanto ben impressa questa stigmata di mestizia dovuta al fatto che occorre essere allegri a comando e occorre partecipare alle tristezze comuni a comando, bisogna indignarsi a comando, bisogna risollevarsi a comando. Abbiamo tutta una serie di input emotivi che ci impediscono di essere felici. Questa callipigerrima ascoltatrice, di cui le fattezze vedo impressa nella sua foto su Facebook, è costretta a una sorta di relitto umano con i propri figli a luglio, non aveva nessuna voglia probabilmente a sbattersi in una spiaggia, lei oggetto di concupiscenza maschile apparentemente per le forme fisiche che ancora mantiene inalterate, ma in realtà profondamente deturpata nella sua emotività dal fatto che deve in quel momento accudire al benessere dei propri ragazzini nel momento in cui lo fanno tutti e quindi è ottenebrata dalla massività di questo mandato. Io non sarà che ce l'hai intorno, che ti scappano, che urlano, che vogliono il gelato, che si mangiano la sabbia, che si rotolano per terra, che si strappano la stessa identica paletta, perché poi i corredini da mare, cioè paletta, secchiello, sono esattamente uguali, però quello dell'ombrellone che ha il bambino accanto al tuo ombrellone è ovviamente più bello di quello che ha tuo figlio, e quindi questi cominciano a litigarsi queste palette, poi si menano, allora c'è questa cosa da mamma scusi, sa no mamma si figuri, è una tale belva mio figlio, e quindi da lì si parla, non ha dormito per 2 anni di seguito e non vuole mangiare e la notte si sveglia e poi mi vomita tutto, ma pensi signora che non mi mangio ancora la frutta, e tu sei lì e dici vi prego parliamo di un'altra cosa. E invece a contrasto rispetto a quello che è il reale sentire della villeggiatura imposta, è stato tutto un fiorire di consigli su come essere magre, essere belle, essere levigate, essere appetibili, il momento più bello è del relax, sembra quasi che ci sia l'imposizione che a un certo punto ci si debba rilassare, ma rilassare da cosa? In più c'è questo fatto che arrivano i mariti il venerdì sera tutti pimpanti perché dicono che bello, andiamo dalle mogli, andiamo a trovare le famiglie, e trovano le mogli isteriche, assolutamente non disponibili ad avere alcun contatto intimo con i mariti perché sono stanchissime, sono nevrotizzate da tutto il menage, la conduzione della casa, della spiaggia, eccetera. E quindi questi poveri mariti arrivano pieni di buone intenzioni e si trovano accanto il cadavere annichilito della moglie e il bambino che ovviamente in vacanza non vuole dormire nel suo letto ma ti si piazza in mezzo, quindi non solo non fai sesso, ma in più dormi pure scomodo perché il ragazzino ti dà calci tutta la notte. Mio marito è nauseato tanto quanto me, c'aveva una tristezza in faccia che proprio mi faceva pena. Ti trovi davanti al cadavere annichilito della moglie, ha detto questa ascoltatrice, aggiungendo angoscia all'angoscia che stiamo provando in questo momento per le notizie che ci circondano, per ciò che vediamo accadere attorno a noi, per la paura generalizzata e comune, che mi piacerebbe sentire anche nella testimonianza diretta dei nostri ascoltatori, che potranno chiamare all'800 24 0024. Verso le 2 del mattino si scatena la caccia alla zanzara e quindi passi la serata con quelle racchettine che ti vendono i cinesi a cercare di friggere le zanzare. Breaking news. È confermata la notizia sulla preoccupante diffusione dell'epidemia che sta trasformando gli esseri umani in zombie. I dati delle organizzazioni mondiali rivelano come ormai il morbo dei morti viventi sia diffuso praticamente ovunque esista presenza umana. I cittadini sono pregati di non cedere al panico e fare di tutto per recarsi ai punti di raccolta che verranno indicati nei prossimi notiziari. Nel frattempo, chi non avesse mezzi disponibili deve restare a casa e possibilmente barricare porta e finestre con mobili e suppellettili. Seguiranno aggiornamenti sull'emergenza zombie. Mi dispiace che si sia interrotto il racconto che giudicavo amaro ma suggestivo alla nostra ascoltatrice, ma la cronaca impone con il suo, ahimè, impietoso e necessario senso di doverci informare su quello che sta accadendo. Io già ho detto che volevo mantenere basso il livello di attenzione e di paura nei confronti di ciò che indubbiamente ci sta circondando, è una paura collettiva, una paura che tutti stiamo vivendo, qualcosa che conosciamo che non conoscevamo in termini così espliciti, così legati comunque a una realtà romanzesca, a una realtà filmica, il senso del morto vivente, il senso del contagio che ci viene da persone con le quali abbiamo normale frequentazione, cominciamo a guardare ogni giorno e cominciamo a guardare con sospetto. Già qualcosa mi aveva particolarmente colpito quando lessi la notizia ieri di un funerale in cui i becchini avevano una mascherina, come se temessero di essere contaminati da ciò che aveva portato alla morte quella salma sigillata dentro la sua bara. A Napoli, al funerale, solo la madre e 2 parenti, i portantini arrivano con le maschere al viso. Ma ancora più mi ha inquietato quello che leggo oggi sul giornale, alla firma di Enza Kusmai, psicosi da contagio. L'altolà dei medici fedeli non baciate le statue. arriva l'influenza, adeguatevi fedeli, nelle chiese è meglio non baciare le statue dei santi, e c'è tutto un elenco di santuari in cui viene raccomandato di non baciare le statue dei santi, da quello di Padre Pio a quello di Santiago di Compostela. Addirittura i fedeli sono richiamati all'attenzione quando sono in processione per prendere la comunione. Addirittura il New York Times ha aiutato una serie di disegnini, ha stilato un catalogo di comportamenti pericolosi, come darsi bacetti o strette di mano. Sembra che lo starnuto di colui potrebbe essere portatore di questo morbo che tutti spaventa, potrebbe colpirci anche a 2 metri di distanza. Quindi fare massima attenzione quando si va per strada. Mi richiedono la linea. Breaking news. Aggiornamento in tempo reale sull'epidemia di zombie esplose in tutto il pianeta. Ricordiamo che il morso dello zombie è letale e nel giro di poche ore contamina chi lo riceve, trasformandolo a sua volta in morto vivente. Gli zombie di più recente trasformazione possono essere scambiati per persone sane. Si faccia la massima attenzione a familiari, amici, fidanzati, mogli e colleghi con comportamenti stereotipati o espressione del viso statica. Potrebbero già incubare il virus dello zombie. Io poco so del virus dello zombie, però avevo già il sospetto, guardandomi attorno, di essere circondato da morti viventi. Quanti hanno avuto la stessa impressione e quanti l'hanno tuttora, guardando nelle pupille spente del proprio compagno d'ufficio, guardando in fila a un semaforo, nell'abitacolo dell'automobile vicino. Vi prego, chiamate 800 24 00 24. Avete paura dei morti viventi? Sarete contagiati anche voi dal morbo degli zombie? Poco si sa soltanto di questo fenomeno. Velocemente sto scorrendo Wikipedia, che è una credenza antica che viene dai sacerdoti di Haiti, che avrebbero possibilità di riportare in vita i morti, quindi di circondare il nostro colpo d'occhio da persone che si muovono in maniera grottesca, come fossero dei pupazzi con i fili tagliati, passando alcune sostanze sotto il naso di queste persone, si provoca questo stato indotto di morte apparente o di vita apparente. Non so bene esattamente cosa si tratti. Chi dice che è un mix di sostanze neurotossiche di origine animale che viene da un pesce palla. Molto si è parlato di zombie anche perché sono stati glorificati da un'infinità di film, anche nell'ultima mostra del cinema di Venezia. Romero si ripresenta con, mi sembra, il suo 5º film che parla di morti viventi. Ma io chiedo aiuto a questo punto, visto che devo riempire una trasmissione in attesa che qualcuno ci chiami e ci parli di quanto si senta circondato da zombie, quanto tema il contagio del morto vivente, con un amico che spesso è venuto in trasmissione, che è Giuseppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana di Neurologi Ospedalieri. Giuseppe, tu non sei in Italia, quindi in questo momento sei a Cannes, mi pare, o a Nizza? Sono a Nizza. Sei a Nizza, quindi dalle tue parti esiste questo senso diffuso per strada di essere contagiati, come lo stiamo sentendo noi nelle nostre strade, nelle nostre città? Senti, io devo dire che a me hai fatto venire in mente una cosa di una settantina d'anni fa, che fece Orson Welles quando dai microfoni della CBS annunciò negli Stati Uniti in un radiodramma lo sbarco dei marziani. Non so se sia questa la tua intenzione, ma penso che l'effetto che potresti indurre è questo. Tornando alla domanda specifica, da un lato non ci sono ancora i cartelloni dell'ultimo film di Romero, che tra l'altro anche lui, il film numero uno, lo fece ormai nel 68, quindi sono passati tranquillamente 40 anni. Dall'altro invece quello che ho visto è che non so se funzionino bene per gli zombie, però c'è un fiorire in tutte le farmacie di soluzioni idroalcoliche, di spray disinfettanti, di salviettine che garantiscono un'igienizzazione accurata di tutte le superfici, comprese le mani. Sai Giuseppe, ho avuto qualche sospetto tempo fa quando cominciai a vedere che nelle metropolitane italiane distribuivano le bustine di quel noto disinfettante che ormai tutte le signore portano nella borsetta, che sembra ormai un rituale diffuso, quello di lavarsi le mani ogni volta che si sa l'ospedale si scende. È una sorta di nuova maniera per difendersi dalla contaminazione. Perché hanno tutti così paura di essere contaminati? Addirittura ti ho letto questa mattina la notizia che cominciano i parroci a dire non baciate le statue, evitate di baciare nei luoghi di culto i simulacri dei santi e dei protettori. Ma la riflessione che a me viene in mente è un'altra, cioè che siamo già in una società ormai quasi nucleare, fatta di nuclei di singoli individui che a volte occasionalmente e in maniera a volte disarticolata interagiscono con gli altri esemplari della stessa specie Homo sapiens, soprattutto dei grandi alveari umani, delle grandi città, un po' meno nelle realtà periferiche e di provincia e di periferia. Per di più, se adesso abbiamo questo potente moltiplicatore di ipocondria, che è il pericolo della pandemia incipiente, cioè voglio dire, benedetto il Signore, noi siamo un paese, rispetto agli Stati Uniti abbiamo circa un quarto della popolazione. Allora, cominciamo a ragionare. In Italia ogni anno, da quando abbiamo statistiche, cioè da dopo la Seconda Guerra Mondiale, 8.000 persone muoiono per le complicanze di quella che conosciamo da 70 anni che si chiama influenza normale, la nostra banale influenza. Allora adesso è vero che c'è questo nuovo virus, è vero che alcune caratteristiche inducono a ritenere che possa esserci una contagiosità maggiore, ma è anche vero che bisogna un pochino stare coi piedi per terra. Perché... i becchini con la mascherina mi sembra... In un altro caso nella storia recente del nostro paese abbiamo visto qualcosa del genere. Beh, sai, insomma, voglio dire, è un gioco di parole troppo facile dire che ci sono molti polli pronti ad abboccare all'influenza dei polli. Questo valeva alcuni anni fa. Quello che è interessante, che penso possa interessare anche chi ci ascolta, è che io ho visto invece stamattina sui quotidiani che l'autorità per la tutela della correttezza dell'informazione e anche della deontologia pubblicitaria ha proibito sul territorio della Repubblica Francese una pubblicità che erano dei grandi manifesti in cui si vedeva un tizio con una maschera sul viso, una mano spinta davanti come per dire proteggiti, compra la soluzione idroalcolica Pinco Pallo numero 1 e sarai sicuro tu e la tua famiglia. È quello che vorrebbe dirci un attimo, scusami Giuseppe. Prego. Nino, buongiorno. Ah, buongiorno. Primo ascoltatore della stagione, benvenuto, grazie. Spero ci porti fortuna, anche se l'argomento... Devo dire che trovo questa trasmissione molto interessante la mattina. La sua allegria mi conforta, ma lei è folle, sa che il morso dello zombie trasforma in zombie. Sono folle come Democrito, sa che Democrito, che era mica un fesso, usciva per strada ad Atene e si metteva a ridere e diceva: questo è l'unico commento che attualmente posso fare a gente che ha perso il buon senso. Lei non teme l'epidemia, quindi? No, io voglio, se posso permettere di esprimere le mie idee personali. Finché è vivo può farlo, certo. Senta, io penso che una parte della responsabilità, so che anche lei è un giornalista, ma la trovo nella stampa. Io leggo Repubblica, ma da un po' di tempo noto la drammatizzazione di ogni fatto, un linguaggio sempre, anche quello politico. I sindacati scendono in trincea, quegli altri stanno sul piede di guerra, ma non si accorgono, se mi permette, io ho studiato linguistica generale, che anche questo è un modo per aizzare la scarsa pace sociale. E così il signore precedente già mi ha tolto un po' del discorso, perché aveva ragione, l'influenza aviaria a momenti non so quanto doveva Ma lei fare. A qualche maniera, per dimostrarci che non è contaminato dal virus dello zombie, del morto vivente. Mi permetto di dire, forse per la mia misantropia lungo tutta la vita, ho cercato, lavorando bene, ma non di conformarmi alle idee, tant'è vero che purtroppo come indipendente ho pagato amaramente, perché in Italia è proprio l'indipendente. Breaking news. Nuovo aggiornamento allarme zombie. La maniera migliore per fermare uno zombie è distruggere il suo cervello. Lo zombie non ha più organi vitali funzionali, quindi sparare al cuore o colpirlo nel perimetro del corpo non serve a nulla. Anche amputato, continuerebbe a muoversi. Si consiglia quindi di colpire lo zombie con decisione alla testa, con un corpo contundente, pesante e affilato. Ottimi attrezzi da giardino tipo vanga, zappa o picozze da alpinista. Sono efficaci anche utensili da bricolage come martelli o mazzette. In mancanza d'altro può essere efficace un ferro da stiro, purché sia staccato dalla vaporiera. Un monitor LCD, in alcuni casi, si è rivelato un valido sostituto. Mi dispiace aver interrotto in maniera così brutale l'ascoltatore. Stiamo dando qualche informazione di come difendersi dall'epidemia. Arrivano notizie inquietanti, sembra che gli zombie, morti viventi, ciò che più teme la contemporaneità, secondo una trattatistica e un'epica molto percorsa nel cinema, nella narrativa, nei romanzi degli scrittori più in voga, gli uomini a un certo punto si accorgono di essere rimasti in pochi ad essere veramente vivi, o perlomeno hanno perso la dimensione ciò che significhi essere ancora vivente. Si guardano intorno e si accorgono che i loro cari, i loro amici, le persone che hanno amato, le persone con le quali hanno avuto commercio fisico, spirituale, carnale e sentimentale, appartengono ormai a un'altra stirpe, che è quella dei morti viventi. 800 24 00 24, aspettiamo il vostro contributo, la vostra testimonianza. Mi hanno già scritto in parecchi su Facebook, mi dice Francesca Caselli, dice: a proposito di zombie, evitiamo il terreno politico. Ma non evitiamolo, però avete prove concrete, reali, di morti viventi che si occupano di politica o che hanno posti istituzionali, fatecelo sapere, però devono essere prove certe. Lo zombie, come mi chiede appunto Emiliano, dice: quali sono le caratteristiche dello zombie? Ci dici come si fanno a riconoscere? Beh, innanzitutto, già ha detto l'ultima breaking news, hanno un incedere piuttosto legnoso, hanno lo sguardo molto fisso, hanno una faccia che sembra corrotta, distrutta, e molte volte il tentativo di mascherare questa corruzione, questa distruzione, la rende ancora più orribile. Quindi lo zombie ha dei tratti del volto fortemente alterati rispetto a quello che era il suo aspetto naturale, dato appunto dalla sua fisionomia. Poi mi viene chiesto, a proposito di alcune notizie date rispetto ai segni più esteriori del panico e contaminazione, da Martina: cioè, strofiniamo i santi con la mucchina prima di baciarli, non so, potrebbe essere un'idea. Poi Federica mi dice che non può rispondere perché gli hanno succhiato il cervello. Marco, buongiorno. Buongiorno, sono Marco da Milano. Beh, mi avete un po' anticipato, se non possiamo toccare la politica, va bene, la tralasciamo. Ma tocchi quello che vuole, non c'è nessun diktat, ma è scontato. Io direi che mi interessa di più in questo momento, ma non è perché voglio sfuggire, non ho argomenti, possiamo dire tutto il contrario di tutto. Piacerebbe nell'esperienza quotidiana di ognuno di noi, perché ci stiamo un pochino trasformando tutti in grandi opinionisti, in giudici del grande linea universo. Lei dove si trova in questo momento? Io mi trovo alla guida di un camion su una delle tangenziali di Milano. Ecco, sarà circondato da zombie sotto di lei? Sicuramente sono circondato da zombie, ma quello che più mi fa pensare è che proprio a livello mentale stiamo tutti diventando degli zombie. Abbiamo demandato agli altri la funzione di pensare e di trovare per noi delle soluzioni. Praticamente noi non ragioniamo più, quello che ci dicono stampa, televisione, vari mass media, allora va tutto quanto bene. Siccome lo dicono per televisione, allora tutto quanto è vero. Quindi diciamo il contagio nasce dall'informazione. Beh, guardi, Non so se nasce dall'informazione, sicuramente nasce dalla poca voglia che abbiamo noi di andare dentro alle notizie, come nel caso specifico di questa influenza o di altre forme di malattie. Vede, ultimamente, negli ultimi 10 anni, le malattie praticamente non si curano, si cronicizzano tutte. Questo perché? Perché cronicizzare una malattia ha un introito a livello economico. Abbiamo adesso ultimamente questa influenza, che a quanto pare poi alla fine, come tutte le altre, usi dei farmaci antivirali, quello che possono fare, ti fanno sparire un giorno prima il sintomo, senza... Io non so se posso citare casi autobiografici. Mio figlio l'ha avuta, era in Inghilterra in un college a luglio, è stato fra i primi ragazzi che l'hanno avuta, gli hanno dato l'antivirale, è stato 5 giorni a letto, è tornato a casa uguale a prima. È guarito tranquillamente, non ha dovuto passare settimane in camere iperbariche oppure mettere fuori dalla stanza cornetti, aglio. Ogni tanto cerca di mordermi, questo sì, però l'importante sì, ma quello è che non tengo quello non dipende dall'influenza, che il figlio morde sempre il padre perché rompe le perché scatole. È giusto che deve mangiarlo e divorarlo, perché è anche un ciclico epico movimento. Ma dico, lei parla dell'informazione rispetto alle possibilità di contagio, ma lei guardi come la rappresentazione delle nostre paure, tratta proprio da alcuni film che hanno anticipato in maniera profetica quello che proviamo oggi, trattava il fenomeno degli zombie. Queste creature non si possono considerare esseri umani e non si uccidono tra di loro. Si nutrono soltanto di carne viva. hanno poca intelligenza e nessuna capacità di ragionamento. Queste creature sono guidate soltanto da puro istinto emotivo. Restano alcune capacità elementari e hanno reminiscenze di quando erano in vita. Non dobbiamo essere indotti a credere che costoro siano membri della nostra famiglia o nostri amici. Non lo sono. Giuseppe Neri, neuropsichiatra e vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, sentendo il professore, l'esperto nel secondo film di Romero, Zombie, che parla alla televisione e descrive i sintomi degli zombie di Romero, di quelli del cinema, di quelli finti, ci trovi affinità con quanto oggi stiamo osservando nella società? Ieri mi ha segnalato proprio te un paginone di Repubblica che ho letto con attenzione, dalla fonte per me non molto conosciuta, ma sarà sicuramente importante. Uno studio CENISPES, Centro Italiano di Studi Politici, Economici e Sociali, ha indagato per conto l'Accademia Internazionale Stefano Benemeglio di disciplina analogica, ha detto che in Italia l'ipnosi è il boom, fa bene al sesso e aiuta la carriera. Quindi già cercano la pozione dello stregone voodoo per diventare zombie? Ma sai, io penso che la nostra società ha subito una serie di lifting, sia fisici sia culturali, negli ultimi anni, e quindi il terrore della malattia è qualcosa di mortale, perché a fronte di un modello di pensiero fragile come quello imperante, che poggia le proprie basi sulla illusione e sulla irrealtà, lo scontrarti con un'idea di qualcosa che purtroppo, come infezione, come contagio, anche se è quotidiana, oggi è come tutte le altre cose, confezionata con un packaging tale da farla diventare tremebonda, l'influenza l'abbiamo sempre avuta, ma questa è ben altro, cozza pesantemente col fatto che noi, nella zombizzazione quotidiana, voglio dire, la capacità, come diceva chi parlava poco fa da Milano, di fermarci un istante e capire cosa c'è dietro la rutilante immagine e tutti gli specchietti per le allodole che ci vengono proposti intorno ai fatti, questo lo scompagina parecchio. Quindi io sarei abbastanza preoccupato circa la capacità che esista a livello diffuso di fermarsi un momento e di fare, come si faceva una volta nei mercati generali, il peso lordo levando la tara e quindi avere il peso netto. No, per questo mi ha divertito il paginone di Repubblica sugli italiani che cercano l'ipnosi come la maniera di uscire dalle proprie angosce, dalle proprie nevrosi, in maniera semplice. Cioè, cinque sedute di ipnosi risolvono anni di... Come modello c'è un grossissimo vantaggio. Primo, è ecologicamente corretto, perché non usi nulla che sia chimico, e quindi questo va benissimo con tutte le tendenze new age: io non voglio nulla di farmacologico, non voglio nulla di chimico, non mi voglio impasticare. Secondo, è difficilissimo pensare, tranne che nei film in cui si pensa che uno venga telecomandato e quindi mandato a fare cose strane, che possa recare grosso danno. Terzo, c'è la suggestione del rituale, la liturgia mediante la quale viene esercitata, almeno nei contesti e nei setting più appropriati, la ipnoterapia, attraverso la quale uno si sente partecipe di qualcosa che è totalmente diverso dai canoni tradizionali con cui viene affrontata una situazione di disagio, di tensione. Quindi è molto accattivante come modello, e quindi questo, tra virgolette, è un prodotto che si vende bene. Bisogna vedere se poi i venditori hanno delle merci contraffatte o delle merci originali. Non mi viene in mente gli esperimenti Giucas Casella, via dicendo, non posso pensare ad altro, ma so che esistono delle gradualità diverse, che esiste una maniera accettata scientificamente, clinicamente, di praticare l'ipnosi, ma ripeto, mi sembrava molto simile alla paura dell'inconsapevole contagio della persona che ci trasmetta qualcosa, della diversità che ci atterrisce, che in fondo è la chiave fondamentale di molti film di Romero. Sono stati fatti in varie epoche e in vari momenti, e ogni momento segna comunque la certificazione della paura attraverso il morto vivente che invade ora le strade, ora i supermercati, il luogo della massima felicità, il luogo dove le persone si aggirano in ambienti ricostruiti fittiziamente, semplicemente per crearci l'illusione su un luogo dove viene prodigata felicità. Una volta morti, una volta morti viventi, una volta ipnotizzati ad essere nuovamente vivi, e si aggirano come animali in gabbia nel grande supermercato. Carmelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sentendovi parlare anche con l'esperto, no? Forse il tipo di zombie che io individuo per le strade e dappertutto, come appena detto lei, nei supermercati, nelle scuole, le scuole pieno. Allora, la caratteristica è piuttosto giovane, magrolino. Ecco, bravo, lei sta facendo qualcosa che mi auguravo da prima che facesse il pubblico, e prego di farlo tutti, 800240024, descrivete gli zombie attorno a voi, prego. Sì, infatti, allora giovani, magrolini, piuttosto stereotipati, hanno una caratteristica molto particolare, camminano tutti col capochino, no? E muovono, a parte gli arti, solo per deambulare, però muovono velocemente un pollice, no? Tacca, tacca, tacca, tacca, in apparecchietti molto, diffusi, secondo me anche a che fare l'ipnosi con questo apparecchietto, e molte volte sono attaccati ai dei fili, no? È chiaro, lo stregone voodoo che ha dato loro la caratteristica del morto vivente in qualche maniera deve impartire loro ordini. Una volta lo faceva con delle bamboline, con dei feticci voodoo attraverso cui li comandava per simpatia, oggi lo fa con dei sistemi wifi naturalmente. Si è modernizzato anche lui, sicuramente. Una cosa particolare, non comunicano con nessuno. Io sono falegname manutentore, ho 47 anni, credo essere immune, perché con quegli affari là non capisco tante cose. E quindi li osservo con attenzione quando lavoro anche nelle casse dove loro abitano. Benissimo, ci dice Carmelo che è un falegname, ma quindi profondo conoscitore di tutti i burattini nati appunto dalla mano creatrice di un falegname, che gli zombie sono di giovane età, camminano a testa bassa e hanno dei congegni attraverso i quali si tengono in contatto con chi li dirige. Quelli entrano spostando i camion. Ma ci sono centinaia di zombie. Capirai, non vedi che sono un esercito? Per sopravvivere devono aver razziato tutto quello che hanno trovato. Cerchiamo di rendergli la vita difficile. Che sta succedendo? Sono una cinquantina, dobbiamo chiudere le porte. Steven! Dobbiamo chiudere le saracinesche. Non devono sapere dove siamo. Steven! Adesso con le porte aperte si troveranno tra i piedi un migliaio di zombie. Facciamoli scornare a vicenda. Saranno loro a levarli di mezzo. 800240024. Oggi parliamo degli zombie tra noi. Chi conosce zombie, chi vede zombie, chi riesce a decifrare quelle che sono le caratteristiche del non più umano, chiami al nostro numero, lo stanno già facendo in molti, ci stanno segnalando che questa epidemia di morti viventi probabilmente colpirà anche noi. Qualcuno dice, Gianluca, mi stanno scrivendo su Facebook, ma tu sei vivo o morto? Non lo so, non saprei rispondere, ancora ho facoltà di parola. Vorrei però a questo punto, abbiamo raggiunto una persona che dovrebbe perlomeno darci delle cognizioni tecniche sul morto vivente o sul non più vivo, è il professor Guido Ferraro. Buongiorno professor Ferraro. Buongiorno. Docente di semiotica e teoria della narrazione all'Università di Torino, lei ha scritto un libro per cui ci siamo già sentiti, Comunque Umani, insieme a Isabella Brugo, Meltemi editore, Dietro le figure di mostre, alieni, orchi e vampiri. Al di là delle figure della fantascienza, in particolare il morto vivente o il resuscitato dalla tomba con una forma apparente di vita, sembra una figura simbolo che ha appassionato moltissimo gli ultimi due secoli. Sì, indubbiamente, anche se dobbiamo dire che il morto vivente è praticamente universale, anche perché è evidente che la paura relativa a questo decisivo momento di passaggio c'è in tutte le culture, magari più leggera là dove si pensa che la morte sia in fondo un passaggio verso un'altra vita, terrena o meno, si può anche prenderla più allegramente. Oddio, lo zombie è la negazione di ogni trascendenza, il cadavere è animato soltanto da una sorta di istinto brutale animalesco, non ha più niente di umano, per questo spaventa forse. Il vampiro ha una sua poesia, ha una sua eternità maledetta, ma lo zombie è pura putrefazione ambulante. Sì, è tipico di un'epoca materialista. Tra l'altro sarebbe interessante anche ricordare che questa cosa qui non viene dalla l'idea dei morti viventi, come usata da Romero, non viene dalla tradizione voodoo degli zombie, ma viene da una tradizione letteraria che risale all'Ottocento, perché Romero dice di essere partito da un romanzo di un po' di anni prima, ma dietro, pochi lo sanno, c'è un libro del 1826 scritto da questa dolce ragazza romantica e poetessa che è Mary Shelley, a cui dobbiamo anche l'invenzione del Frankenstein. E secondo questo modo di vedere, La causa di questi orribili morti che si mangiano i viventi è la scienza. C'era un atteggiamento contro il materialismo scientifico che, nonostante le sue intenzioni, avrebbe portato a catastrofi, come del resto anche nell'ultima versione di questa storia di un paio di anni fa, mi sembra, no? Il film I Am Legend, che riprende questa storia qua. E quindi è vero che è una figura tipica di un'epoca in cui si pensa che la morte è il confine, insomma, e questo ormai sono ben pochi a pensare che la vita vera è un'altra, che arriva dopo. Beh, chi lo pensa ha pieno diritto e dignità di poterlo pensare, è che lo zombie... Però lo pensano in pochi, cioè anche chi dichiara religioso comunque ritiene, insomma, che la vita è questa che viviamo qua, ecco, ha qualche dubbio che ce ne sia un'altra, ma... Ma questo io lo lascerei alle convinzioni, cioè io non entro nella coscienza degli altri. Oggi, questa mattina, mi accontenterei di avere segnalazioni di zombie. Se attendo un attimo, professore, però ho i primi segnalatori, primi, ormai quasi gli ultimi. Paolo, buongiorno. Sì, velocemente, buongiorno. Li descriva nella sua forma, nella loro forma esteriore, così capiamo meglio. Sì, volevo dire, tra supermercati e zombie, io vorrei segnalare gli zombie moderni, i 150.000, quasi adesso quasi 200.000 negozi che hanno chiuso a causa di certi supermercati, a causa di certi politici. Lei è toccato vicino da questa situazione? Sì, abbiamo chiuso un anno fa. Perché... Quindi lei adesso si aggira come morto vivente in attesa di... No, io mi diletto a guardare il mio giardino, i miei bambini, i miei nipotini e le trasmissioni che fate voi o che fanno altri enti. Auguri, allora, auguri. Quando il suo sguardo comincerà a diventare un po' fisso e un po' vitro, abbiamo già dato quelle che sono le istruzioni finali, occorre a me agire subito, immediatamente, e troncare il capo. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti a lei e alla sua trasmissione che seguo. Complimenti, parliamo di morti putrefatti, non è che ci sia molto a complimentarsi. Guardi, vorrei parlare d'altro, prego. Purtroppo di morti ce ne sono moltissimi. Sì, ma non per strada che camminano, al loro posto ce ne saranno sempre tanti, prego. E forse lo siamo anche noi qualche volta, ma quelli che io accuso maggiormente sono quelli che incontri per strada, quotidianamente, e non salutano, hanno paura di comunicare, di aprirsi un po' al mondo, di dire due parole, di... non so... Ma sono incontri... zombie, Luca, non possiamo pretendere che lo zombie è recuperabile, lo zombie, ahimè, nella casistica che noi conosciamo, può essere solo fermato tagliandogli la testa o sparandogli nel cervello. Mario, buongiorno. Buongiorno. Sono Mario. No, non vorrei adesso dare istruzioni negative, già se ne spara troppa di gente. No, dicevo, nella fantasia lo zombie è irreversibile, dallo stato di zombie non si torna più indietro. Mario, prego. Ecco, dunque, tagliatemi la testa. La conclusione. Io penso di conoscere uno zombie, quello sono io. Sono più di 3 anni almeno, se non pure 6, che vivo una vita in condizioni non buone. Ho perso tutto, famiglia, lavoro, prima lavoro, poi famiglia. Attualmente, giustamente, gli amici, quei pochi che avevo, si sono allontanati e io passo le mie giornate su uno scoglio a prendere il sole, così, almeno isolandomi. Oddio, partecipo alla sua sfortuna, al suo dolore, le posso dire soltanto, e poi la vita è fatta di alti e bassi, comunque stare su uno scoglio e passare le giornate su uno scoglio non è una condizione così maledetta, uno zombie. Beh, certo, molti inviterebbero questa condizione. Cosa fa? Pesca? Cosa fa dallo scoglio? Guarda il mare? Niente, guardi un mare, guardo la gente che è sulla spiaggia, ma non mi lascio avvicinare. Tutti la vedono come zombie, nessuno si avvicinerà mai a lei. Cerchi di mascherare le caratteristiche della sua zombità, chissà che qualcuno si avvicini a lei evitando di essere terrorizzato dal suo camminare incerto. Paola, buongiorno. Buongiorno. È uno zombie anche lei? Sono uno zombie. E adesso vi zombie, spiego... zombie salta, lo zombie cammina. Ah, zombie, vengo sì. Vengo da Bergamo, pardon. Ah, Bergamo, adesso, li chiamate zombie. E adesso sì, adesso vi spiego come si sente uno zombie. Allora, si dorme, si passano le notti con le mascelle strette a sognare le persone che si vorrebbero divorare, che ti hanno fatto del male per tutta la vita, però non si riesce a farlo, le tocchi, cerchi di sbranarle, cerchi di afferrarle. Da dove si comincia a sbranare un essere umano, per capire? Si comincia con gli animali. No, ma le parti umane che lei sbranerebbe? Da che parti umane si comincia? Sì. si comincia dal volto, si comincia dagli occhi, si comincia dalla faccia, si comincia da tutto ciò che è più vicino all'animo. E non sono un burattino, però tutte queste sono l'era della complessità, è un dramma, perché radio, televisione, giornali, io praticamente mi sento tutte delle voci che parlano dentro la mia testa, certo. Frasi che rimbombano, che non sono mie, ma che ho letto, che ho sentito, che ho ascoltato, e vivo camminando in questi supermercati di cui continuate a parlare, con queste frasi che rimbombano nella testa e che non riesco a dipanare. È affamata, è affamata e assetata di carne umana? Affamata di amore, in realtà. Ah, di carne umana viva, cruda allora, ecco, va bene. Di carne umana cruda, di vero Gli auguro amore. Di trovarne tanta e auguro alla persona che lei incontrerà che lei non la prenda a morsi, ma ne faccia un uso più consapevole e più tenero. Grazie, la confessione dello zombie ci fa capire che abbiamo iniziato bene e spero continueremo ancora peggio. A domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.